tuo sole, Gordon. Non vagare per universi bui di una falsa coscienza. Non andare nel freddo di un niente che speranza. Il tuo segnale che ti legava alla terra, ti sei levato dalla rotta dell'astronave guida. Credi di poter andare da solo. Maledetto.